potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Benvenuti in una nuova prospettiva della cinofilia moderna. scuolaformazionecinofila.it. Condizionamento classico e riflesso mediatico. Cioè, se ci pensiamo bene, spesso si dà per scontato che le decisioni, le reazioni quotidiane, i giudizi sulle cose del mondo partano tutti da un unico punto, ovvero la mente razionale. L'illusione di avere sempre il volante tra le mani, diciamo. Esatto, proprio quella. C'è questa radicata convinzione di essere creature puramente logiche al comando di ogni singola azione. Eppure, e qui viene il bello, basta immaginare una scena banalissima e molto comune. Tipo? E tipo si sta camminando per strada, di sera, magari in una zona poco illuminata. Con la coda dell'occhio si nota un'ombra che si muove velocemente. E boom! Immediatamente, prima ancora di formulare un singolo pensiero di senso compiuto, il corpo scatta all'indietro. Ah, la classica reazione di allarme, cuore a mille, respiro bloccato. Esattamente, i muscoli si tendono e tutto questo accade in una frazione di secondo, molto ma molto prima che la corteccia prefrontale abbia il tempo di analizzare l'ombra e dire «Ah, tranquillo, era solo un gatto». Certo, perché la mente arriva sempre dopo in questi casi. Ok, analizziamo questo punto. Perché quell'istante di pura reazione fisica, in cui il corpo prende il comando saltando completamente la mente cosciente, nasconde un universo davvero incredibile. E l'approfondimento di oggi esplora proprio il codice sorgente della nostra biologia, e cosa ancora più affascinante è come questo codice possa essere riprogrammato dall'esterno. Che poi quello scarto di millisecondi tra la reazione corporea e la consapevolezza mentale è letteralmente il fulcro di tutto. Stiamo parlando della distinzione fondamentale tra l'hardware biologico innato, quello con cui nasciamo per intenderci, e i software che ci vengono installati successivamente nel corso della vita. Una distinzione cruciale. E su cosa ci basiamo per questa chiacchierata di oggi? Allora, per capire questa dinamica, oggi dissezioniamo un documento molto particolare. Si tratta di un saggio intitolato L'algoritmo del riflesso, con il sottotitolo Dalla salivazione di Pavlov al biohacking mediatico. Un titolo che è già tutto un programma, caspita. Assolutamente. È stato pubblicato all'interno del progetto potatv.it da un autore che si firma semplicemente come Amico Michele. Ed è un testo che lancia una tesi forte, cioè quasi provocatoria, su come i media e il marketing moderni sfruttino la nostra fisiologia. Ecco, fermiamoci un secondo su questo, perché so già che si andrà a toccare tasti sensibili. Sì, ed è un aspetto che mi preme chiarire fin dall'inizio. Il documento contiene una dura critica sociale e sistemica, ma il nostro scopo oggi non è schierarci. Non siamo qui per validare o smentire l'esistenza di un grande piano manipolatorio. Chiaro, nessun giudizio di valore da parte nostra? Esatto. L'obiettivo è piuttosto usare questo testo come lente per esplorare la scienza reale, quindi la psicofisiologia e le basi teoriche che l'autore usa per sostenere la sua idea. Vogliamo solo capire come, secondo questa visione specifica, i riflessi umani più intimi possano essere bypassati o, per l'appunto, ingegnerizzati. Praticamente una vera e propria autopsia di un'idea. Mi piace. Allora, io direi che, per capire come si possa hackerare o manipolare un sistema compresso come quello umano, credo sia necessario partire dalle basi. Da come funziona la macchina senza interferenze. Proprio così. Come funziona il sistema operativo preinstallato. Il testo parla di una sorta di saggezza del corpo, facendo riferimento a quelle che in psicologia clinica si chiamano risposte incondizionate. E da quello che ho letto non c'è assolutamente alcun ragionamento logico dietro queste reazioni, giusto? Nessuno. Zero logica. Sono puri automatismi antichissimi, stratificati nel nostro sistema nervoso durante milioni di anni di evoluzione. E non c'è bisogno di impararli, ci si nasce e basta. Le fonti citano l'esempio classico e più basico di tutti, la salivazione. L'acquolina in bocca, praticamente. Esatto. Quando si ha fame e ci si trova davanti a un cibo appetitoso, l'acquolina in bocca non è un vezzo o una dimostrazione di golosità. È un riflesso puramente meccanico. Cioè il corpo si sta già portando avanti col lavoro. Perfetto. Il corpo sta secernendo enzimi per iniziare la predigestione prima ancora che il cibo tocchi la lingua. Un altro esempio cruciale citato dal testo è il riflesso di orientamento. Se si sente un rumore forte e improvviso, gli occhi e la testa scattano verso la fonte del suono in automatico. Non ci si pensa su. E immagino anche la famosa risposta lotta o fuga rientri in questa categoria. Il fight or flight, come dicono gli anglosassoni. Assolutamente. È il meccanismo che hai descritto perfettamente nell'esempio del gatto nell'ombra. In quel caso, il corpo inonda istantaneamente il torrente ematico di adrenalina. Devia il sangue dal sistema digerente verso i muscoli delle gambe e delle braccia, dilata le pupille. Tutto pronto per scappare o tirare un pugno, insomma. Esatto, pura sopravvivenza. Ma la cosa interessante è che il testo fa un passo ulteriore. Inserisce tra queste risposte fisiologiche potenti anche due fenomeni molto discussi: l'effetto placebo e l'effetto nocebo. Ecco, guarda, su questo punto mi sono fermato a riflettere un bel po' preparando l'analisi di oggi, perché in genere, nell'opinione comune, si liquida l'effetto placebo come qualcosa di puramente psicologico. Sì, del tipo te lo sei solo immaginato, è tutto nella tua testa. Esattamente. Ma il saggio lo tratta come una reazione biochimica tangibile e reale. L'idea che l'organismo possa generare una guarigione vera, fisica, o al contrario un malessere profondo, con il nocebo, basandosi unicamente sull'aspettativa di un evento. Voglio dire, è sbalorditivo. Lo è davvero. Ed è sbalorditivo perché smantella completamente quella separazione netta tra mente e corpo a cui siamo abituati. In che senso? Nel senso che quando una persona assume, che ne so, una pillola di zucchero, credendo sia un potente antidolorifico, il cervello non si limita a pensare che il dolore sia sparito. Attiva effettivamente il rilascio di endorfine. Che sono tipo la morfina prodotta dal nostro stesso corpo. Esatto, sono gli antidolorifici naturali del corpo. Crea una cascata chimica misurabile e reale in risposta a una semplice convinzione. Questa è, secondo l'autore, la vera saggezza innata del corpo umano. Ma, e qui il saggio entra nel vivo dell'argomento, il vero meccanismo di trasformazione avviene quando questa fisiologia di base incontra l'ambiente esterno. Quando inizia a imparare ad adattarsi, giusto? Proprio così. È esattamente qui che entra in gioco Ivan Pavlov e la sua fondamentale scoperta del condizionamento classico. Ok, fermi tutti. Fin qui ci arriviamo tutti dai vecchi ricordi scolastici. Il fisiologo russo, i cani, il campanello e il cibo. Lo conosciamo. Ma il documento che stiamo analizzando destruttura, cioè scompone questo processo in tre fasi molto precise. Sì, non è solo una storiella sul campanello. Infatti, come avviene esattamente il passaggio da una risposta naturale, tipo la salivazione, a un riflesso letteralmente installato da zero? Allora, il processo si basa tutto sulla creazione di associazioni predittive. Il cervello cerca di prevedere il futuro per risparmiare energia. La prima fase è lo stato precondizionato. Abbiamo uno stimolo incondizionato, come il cibo, che genera naturalmente la risposta incondizionata, la salivazione, come dicevamo. E fin qui siamo nel regno della natura. Tutto normale. Esatto. Se in questa fase iniziale si fa suonare un campanello, che in questo contesto è uno stimolo neutro, il cane magari alza le orecchie per il riflesso di orientamento, ma di certo non saliva. Il campanello non significa assolutamente nulla dal punto di vista alimentare. Non sfama nessuno, giustamente. La magia, o per meglio dire la riprogrammazione neurologica vera e propria, avviene nella seconda fase, la fase di acquisizione. Guarda, prima di esplorare la fase di acquisizione con il cane, vorrei provare a traslare il concetto su qualcosa di più umano, più quotidiano, se sei d'accordo. Certo, un'analogia aiuta sempre a visualizzare. Proviamo a immaginare il contesto di un ufficio. Uno stimolo neutro potrebbe essere la suoneria predefinita di un nuovo smartphone. Un semplice trillo. Nessuna emozione collegata, niente di niente. Lo stimolo incondizionato, invece, potrebbe essere una persona. Un collega. Per giù. Magari un capo particolarmente tossico, che causa uno stress enorme. Uno che urla o minaccia costantemente il posto di lavoro. Quella persona scatena una risposta incondizionata di allarme. Ansia, respiro corto, rilascio immediato di cortisolo. Ok, ci sono. Quella dell'analogia dello smartphone è una prospettiva davvero utile per capire la fase di acquisizione moderna. Perché cosa succede? Se quel trillo neutro del telefono inizia a suonare regolarmente, che so, la notifica di un messaggio un attimo prima che quel capo tossico entri nella stanza e inizi a urlare, il cervello non rimane passivo. Prendi appunti, insomma. Esatto. Registra la sequenza temporale in modo precisissimo. Il sistema nervoso capisce che l'evento A, il trillo del telefono, precede sistematicamente l'evento B, lo stress acuto. E qui la mente cerca di avvantaggiarsi. E per le memorie emotive legate alla paura. E il cervelletto, che gestisce il tempismo e le memorie motorie, iniziano a mappare fisicamente questa associazione. Non è un pensiero logico, attenzione, è un vero e proprio cablaggio neuronale. Quindi il cervello proietta l'esperienza passata sul futuro immediato. Perfettamente. Fino ad arrivare a quello che il testo chiama lo stato condizionato. Dove, immagino, il trillo del telefono diventa a tutti gli effetti il nuovo campanello di Pavlov. A quel punto, e correggimi se sbaglio, una persona potrebbe trovarsi in vacanza dall'altra parte del mondo, sentire quello stesso trillo provenire dal telefono di un estraneo al tavolo accanto, e improvvisamente ritrovarsi con lo stomaco chiuso e il cuore in gola. Senza che ci sia nessun capo nei paraggi, nessuna minaccia reale. È l'assoluta incapacità della logica di fermare questo processo. Perché anche sapendo benissimo che è il telefono di un perfetto sconosciuto, il sudore freddo ti arriva lo stesso. È una bellissima domanda. Arriva perché l'ordine non parte dalla corteccia prefrontale, che è la sede della razionalità e della logica. Parte da quelle strutture primitive di cui parlavamo prima, che comunicano direttamente con il sistema nervoso autonomo. Quindi scavalcano il capo, per così dire. Esattamente. Il corpo agisce in modo indipendente per proteggere l'organismo. E a questo proposito, il documento di amico Michele introduce un concetto medico e psicologico davvero affascinante: l'omeostasi anticipatoria. Praticamente, l'organismo umano è progettato per non farsi mai cogliere impreparato. Cioè, cerca di prevedere i danni. Sì, perché rispondere a uno squilibrio, quando è già in corso, costa troppa energia al sistema. Quindi, il corpo cerca di anticiparlo prima che accada. Come funziona all'atto pratico questa anticipazione? Hai qualche esempio dal testo? Le fonti fanno esempi molto chiari su questo. Se una persona, per dire, è abituata a consumare una grossa quantità di zuccheri in un contesto specifico, il corpo sa che a breve arriverà un picco glicemico pericoloso. Quindi cosa fa? Inizierà a secrecere insulina nel sangue non appena la persona vede il dolce o entra in quel contesto. Molto prima del primo boccone, insomma. Esatto. Un altro esempio clinico molto studiato, molto più serio, è la nausea che colpisce un paziente oncologico nella sala d'attesa dell'ospedale. Prima ancora di iniziare la sessione di chemioterapia. Sì, esatto. L'ambiente stesso, l'odore di disinfettante, persino il colore delle pareti della sala, sono diventati stimoli condizionati fortissimi. Il corpo anticipa il malessere chimico e attiva la reazione fisiologica in anticipo, provocando la nausea. Pazzesco! È come se il corpo viaggiasse nel tempo. E per mantenere questa complessa macchina predittiva, il cervello usa regole precise, la generalizzazione, reagendo anche a stimoli vagamente simili per pura cautela. La discriminazione, imparando col tempo a ignorare i falsi allarmi per risparmiare energia. E infine l'estinzione del riflesso, che avviene solo se l'associazione tra campanello e stress non si presenta più per tantissimo tempo. Ma aspetta un attimo. Se i nostri corpi passano tutta la vita a creare queste scorciatoie predittive, cercando costantemente segnali di minaccia o di ricompensa per risparmiare energia, cosa succede quando qualcuno là fuori comprende il codice di questa macchina? E ha senso. Il passo è enorme dal punto di vista tecnologico, senza dubbio. Ma il principio biologico di base è assolutamente identico. Il neuromarketing, secondo l'analisi dell'autore, non è altro che l'evoluzione su scala industriale dell'esperimento di Pavlov. E come funziona oggi rispetto al passato? Negli anni passati, per capire se una pubblicità funzionava, si facevano i classici sondaggi, si chiedeva l'opinione delle persone nei focus group. Ma c'è un problema di base. Le persone mentono. A volte lo fanno consapevolmente, altre volte mentono a se stesse, perché non sanno davvero perché preferiscono un prodotto a un altro. La logica crea alibi. E oggi invece? Non chiedono più niente. In tempo reale il flusso sanguigno nel cervello mentre un soggetto guarda uno spot televisivo. I neuroni che si attivano richiedono più ossigeno e la macchina rileva esattamente quali aree si accendono come alberi di Natale. E so che usano anche roba per tracciare gli occhi, giusto? Sì, light tracking, per vedere esattamente millisecondo per millisecondo dove si posa lo sguardo, quanto la pupilla si dilata e così via. Quindi praticamente non si basano più su quello che un consumatore dice di provare a parole, ma su come il suo sangue e i suoi occhi reagiscono involontariamente È spaventoso se ci pensi. L'obiettivo finale di questi studi non è mai costruire un'argomentazione razionale migliore per convincerti. Lo scopo è trovare le sequenze esatte di colori, suoni e ritmi visivi che bypassino completamente la corteccia prefrontale. Andare dritti all'istinto. Esatto. Se si vuole generare un senso di scarsità e urgenza, si studiano gli stimoli capaci di far accendere l'amigdala, che, come dicevamo, gestisce la paura. Se si vuole legare un prodotto a un desiderio irrefrenabile, si cerca di attivare il nucleo accumbens, che è uno dei centri nevralgici del circuito della ricompensa. È responsabile del rilascio di dopamina. Cioè, l'idea è inondare il sistema di anticipazione del piacere prima ancora che il soggetto abbia formulato un singolo pensiero logico sul prodotto in sé. Perfetto. Biohacking a tutti gli effetti. Guarda, devo fare la parte dell'avvocato del diavolo qui. Perché usare un bel colore rosso per dare energia a un marchio o una colonna sonora avvincente per rendere uno spot memorabile? Non è semplicemente quello che chiamiamo fare buona pubblicità? È una distinzione lecita da chiedere. Qual è la linea di demarcazione tra la normale persuasione efficace e quello che la fonte definisce in modo anche piuttosto inquietante biohacking? La differenza è sostanziale e risiede nel bersaglio finale dell'operazione. La persuasione tradizionale, anche quella più emotiva o commovente, cerca comunque un consenso. Usa la retorica, fa leva su valori sociali o aspirazioni personali, richiede in qualche misura una partecipazione cognitiva dell'individuo, che ascolta il messaggio e alla fine lo accetta o lo rifiuta. E il biohacking, invece? Il biohacking, descritto dal documento di Amico Michele, non cerca il consenso della mente, cerca la reazione di una ghiandola. Non si rivolge ai tuoi valori, ma all'hardware biologico di base. Frequenze sonore specifiche o pattern visivi ripetuti vengono calibrati scientificamente per innescare un riflesso del sistema nervoso autonomo. È una coercizione chimica, se vogliamo usare un termine forte. Quindi è come aggirare la dogana del cervello? Praticamente sì. Si cerca di provocare una reazione corporea così veloce e profonda che quando la mente razionale finalmente si sveglia per valutare il messaggio, trova un corpo che ha già preso una decisione emotiva. Esattamente. Il verdetto è già stato emesso dai tuoi ormoni. È letteralmente come scassinare la serratura del sistema immunitario mentale. E se l'idea che questo venga usato per vendere una bevanda, un'automobile è già forte di suo, il documento non si ferma affatto qui. No, infatti. Fa un salto qualitativo importante. Fa un salto molto più profondo e ci porta nella sfera dell'informazione, esplorando quella che l'autore chiama la biochimica del consenso e la manipolazione dei media. Ed è qui, credo, che sia fondamentale richiamare la nostra premessa sull'imparzialità. Assolutamente. Doveroso. Stiamo per addentrarci nella teoria forse più complessa e controversa del testo, che equipara i media moderni a un vero e proprio sistema di addestramento coercitivo, su larga scala. Secondo la tesi pubblicata su potatv.it, i mass media non si limitano a informare, ma gestiscono l'attenzione pubblica operando attraverso un calcolato meccanismo di alterazione endocrina. Ormoni manipolati dalle notizie, insomma. Esatto. Creano quello che l'autore definisce un segno somatico, un marchio, un'impronta lasciata direttamente sulla fisiologia e sui tessuti di chi ascolta o guarda. Questo protocollo di addestramento è diviso in fasi molto specifiche nel testo. Vorrei analizzarle partendo dalla prima, la cosiddetta fase di carico. Come funziona questo bombardamento? Allora, la fase di carico ha un obiettivo primario: imprimere questo segno somatico saturando l'organismo di ormoni legati allo stress, in particolare il cortisolo. Secondo questa analisi, la struttura di un telegiornale o il flusso infinito di un feed sui social network non seguono una logica casuale o puramente giornalistica, ma biologica. In che senso? Si apre costantemente con notizie di cronaca nera, allarmismi economici, minacce imminenti alla sicurezza pubblica. Ma attenzione, non è solo il contenuto a fare il lavoro sporco, è la forma. I dettagli tecnici di come viene presentata la notizia. Sì, i suoni di sottofondo tensivi, il ticker rosso brillante che scorre in basso sullo schermo con la scritta ultima ora, il ritmo incalzante del montaggio e il tono di voce deliberatamente grave del conduttore. Tutti questi elementi funzionano esattamente come il campanello di Pavlov nella fase di acquisizione. E preparano il corpo. Esatto. Attivano artificialmente e costantemente la risposta di lotta o fuga. Il corpo di chi è seduto sul divano davanti allo schermo si prepara fisicamente a un disastro imminente. Guarda, per tradurlo in un'esperienza fisica, mi fa venire in mente un'analogia vissuta sulla pelle. Sentiamo. È come trovarsi su una di quelle giostre estreme. Le montagne russe, ma in buio totale. Un incubo, praticamente. Esatto. Quando sei su quel carrello e vieni lanciato a 100 all'ora, senza vedere i binari, non c'è assolutamente modo di usare la logica per valutare la pendenza della prossima curva o il pericolo reale che stai correndo. Ma il punto è che non sei tu a controllare la giostra. C'è un operatore fuori. Proprio così. C'è qualcuno in cabina di regia che aziona i freni improvvisamente, fa partire accelerazioni repentine e inserisce suoni stridenti dagli altoparlanti. In quel preciso momento, la reazione viscerale del passeggero è totale. Il cuore batte all'impazzata, lo stomaco si chiude. È biologicamente impossibile avere una valutazione lucida e razionale del percorso, mentre i tuoi livelli di stress vengono manipolati meccanicamente dall'esterno. Bellissima questa analogia delle montagne russe al buio. E illustra perfettamente la cecità razionale indotta dallo stress acuto. Durante la fase di carico, la mente cosciente è letteralmente in ostaggio della biologia. Ma immagino che nessuno possa resistere così all'infinito. Assolutamente no. Un organismo non può tollerare una saturazione di cortisolo perenne senza collassare o senza che subentri l'apatia totale. Il protocollo di addestramento necessita di una risoluzione per chiudere il ciclo e fissare il riflesso. Ed ecco che la struttura dell'informazione, sempre secondo la fonte, passa alla seconda fase. Quella che segue lo stress estremo. Sì, la fase di scarico, che l'autore chiama suggestivamente la libertà concessa. E cosa comporta questa fase a livello di programmazione? Dopo aver mantenuto il pubblico in uno stato di allarme e tensione prolungato per buona parte della trasmissione, il notiziario cambia improvvisamente marcia. Si passa a notizie leggere, rassicuranti, le classiche storie a lieto fine, i panda allo zoo, o puro intrattenimento frivolo. Ah, il classico servizio di chiusura sui cani che fanno surf. Esatto. Anche il linguaggio del corpo e il tono di voce di chi presenta si rilassano palesemente, sorridono. Questo contrasto repentino genera una risposta biochimica immediata e molto potente nel pubblico, una scarica di ossitocina e altri neurotrasmettitori legati al benessere e al sollievo. Quindi, in pratica, si crea l'illusione di sentirsi finalmente tranquilli e soprattutto informati sui fatti del mondo. Esatto, un'illusione. Il documento insiste su un dettaglio cruciale qui. La mente di chi guarda percepisce una sensazione di libertà e sollievo pacato, ma questa percezione è del tutto falsata alla base. La mente si sente libera solo ed esclusivamente perché il corpo è stato in precedenza artificialmente compresso, saturato di stress e paura, e poi in modo quasi magnanimo rilasciato. Cioè, è un trucco? Sì. Non è un benessere reale nato dalla vera comprensione dei fatti del mondo. È un benessere indotto per puro contrasto biochimico. Per farti un altro esempio, è il sollievo impareggiabile di chi si toglie un paio di scarpe troppo strette che ha dovuto tenere tutto il giorno. È una prospettiva che fa quasi venire le vertigini a pensarci bene. E una volta che questo ciclo di carico e scarico, questo continuo alternarsi di cortisolo e ossitocina, è stato ripetuto decine, centinaia o migliaia di volte nella vita di una persona, quali sono gli effetti a lungo termine? Perché non credo che l'organismo dimentichi facilmente questo tipo di manipolazione. Hai centrato il problema. Il saggio esplora proprio questo aspetto, parlando del riflesso postumo. Che suona quasi come un'eredità neurologica. Ed è forse la conseguenza più duratura, potente e invisibile di tutto il processo. Il principio è che una volta che il segno somatico è stato impiantato saldamente nel sistema nervoso e il cablaggio neurologico è diventato stabile, l'addestratore non ha più bisogno di ripetere l'intero lungo ciclo di saturazione per ottenere il controllo. L'algoritmo del riflesso è diventato del tutto autonomo. Fammi capire bene la meccanica di questo innesco a distanza di tempo. Come funziona? Significa che in futuro, a distanza di mesi o persino anni, basterà somministrare un singolo, minuscolo frammento dello stimolo originale per riattivare l'intera risposta ormonale, come se si fosse di nuovo lì. Un frammento tipo cosa? Un singolo titolo di giornale scritto con un font particolare, un frame visivo isolato, o persino l'uso di una specifica parola d'ordine nel dibattito pubblico. funzioneranno tutti come uno stimolo condizionato immediato e fortissimo. Come il famoso campanello, di nuovo. Esatto. Quel singolo frammento farà ripiombare la fisiologia della persona nello spazio di pochissimi millisecondi nell'esatto stato di stress, paura o indignazione acuta vissuto in passato. L'omeostasi anticipatoria si accenderà riproducendo il panico totale senza che ci sia alcun reale pericolo presente in quel momento. Cioè, e questo è pazzesco, questo cambia tutto il paradigma di come intendiamo il dibattito pubblico e le opinioni personali. Totalmente. Se la teoria del saggio è corretta, significa che nel bel mezzo di una discussione sociale o politica, che so, a cena tra amici, una persona potrebbe essere profondamente convinta di star usando la propria logica per analizzare un problema. Potrebbe credere di essere nel pieno delle sue facoltà intellettuali, dibattendo lucidamente sui fatti. Mentre invece sta succedendo tutt'altro. Esatto. Sopra la superficie, la sua mente razionale starebbe semplicemente annaspando per trovare giustificazioni intellettuali a una cascata ormonale incontrollabile, a una reazione biochimica che le è stata installata da qualcun altro molto tempo prima. È esattamente, parola per parola, il ribaltamento di prospettiva che il testo vuole provocare nel lettore. La logica viene brutalmente declassata, diventa una semplice ancella della biologia. Crediamo di riflettere su un argomento che ci genera rabbia o sdegno, quando in realtà siamo stati paulovianamente condizionati ad arrabbiarci a quel determinato stimolo. E usiamo il cervello solo per non ammetterlo. Proprio così. La nostra intelligenza viene usata unicamente per tessere una trama logica e coerente che giustifichi a noi stessi quell'emozione improvvisa e incontrollabile. Il risultato è che le persone si dividono e litigano ferocemente sui contenuti apparenti, mentre i loro corpi, dal punto di vista biologico, reagiscono in modo identico agli stessi inneschi. È uno scenario cupissimo, sembra di essere tutti burattini chimici, ma il documento del progetto Potatufie offre una via d'uscita, una conclusione, una proposta di resistenza intellettuale. Sì, la offre. Ed è quella che definisce biopensiero. Il biopensiero. Come si traduce questa idea in una pratica reale di decondizionamento? Come si fa a sfuggire a qualcosa che avviene nel buio dei millisecondi, prima ancora di potersene accorgere coscientemente? L'autore suggerisce che l'unica vera forma di difesa parta quasi paradossalmente dalla consapevolezza della nostra fragilità. Il principio cardine del biopensiero è interiorizzare una verità molto scomoda, che il corpo sa e reagisce prima di noi, sempre. Quindi bisogna smettere di credere di essere esseri perfetti e razionali. Esatto. Finché si continua a credere nell'illusione di essere entità puramente mentali e logiche, si rimane inevitabilmente vulnerabili a chi conosce i veri interruttori, quelli ghiandolari. Il biopensiero invita a compiere un passo indietro, fondamentale, invitare a osservare le proprie reazioni fisiche. Tipo monitorarsi mentre si ascolta un telegiornale? Sì. Quando si legge una notizia o si scorre un social network e si sente immediatamente lo stomaco stringersi, il respiro bloccarsi o una vampata di rabbia. Prima di lanciarsi in un giudizio logico o in una furiosa reazione verbale su una tastiera, bisogna fermarsi e riconoscere l'attivazione dell'algoritmo del riflesso. Riconoscere l'inganno meccanico in atto. Proprio quello. Comprendere l'esistenza di questo meccanismo, riconoscere quando un'ansia non deriva affatto dal contenuto reale, ma dal tono o dalla colonna sonora, è l'unico vero modo per interrompere il circuito automatico. È il primissimo passo per smettere di essere, per usare le crude parole del testo, i cani di Pavlov dei media e restituire un minimo di vera sovranità e libero arbitrio alla propria psiche. Caspita, tirando un po' le fila di questa esplorazione densissima, si può dire di aver tracciato una mappa incredibile che collega gli istinti più primitivi del nostro passato alla modernità più complessa. Siamo partiti dalla pura e semplice saggezza di sopravvivenza animale. Il cane che saliva? Esatto. Analizzando come il corpo si prepari a digerire il cibo o a fuggire da una minaccia ancor prima che la mente lo sappia. E si è visto come questa meravigliosa efficienza del nostro sistema nervoso, la sua capacità di prevedere gli eventi e mappare il mondo attraverso associazioni anticipate per salvarci la vita, sia diventata un terreno di conquista, è diventata la materia prima, il codice da hackerare, per l'ingegneria sofisticatissima del neuromarketing, che mappa le attivazioni cerebrali per bypassare la ragione, e per i mass media, che, come sostiene l'autore, usano l'architettura stessa dell'informazione per impiantare quelli che lui chiama segni somatici. Infatti, e abbiamo esaminato come uno stimolo del tutto neutro, un semplice suono, un campanello o persino un colore, possa trasformarsi in un interruttore diretto per il sistema nervoso autonomo. Abbiamo dissezionato a fondo la teoria del carico e scarico ormonale, osservando come la manipolazione mirata dei picchi di cortisolo e dei rilasci di ossitocina possa essere usata per creare una falsa sensazione di libertà mentale e sollievo. Che era poi l'illusione della scarpa stretta di cui parlavi prima. Esatto, la libertà concessa. E alla fine abbiamo affrontato le ramificazioni sociali del riflesso postumo, l'idea davvero perturbante che la nostra stessa logica di cui andiamo tanto fieri possa essere ridotta a un banale strumento di giustificazione a posteriori per paure e reazioni installate in passato. Qualunque sia il giudizio finale che ognuno di noi può farsi su queste teorie, una cosa è certa. Comprendere la profonda connessione tra gli stimoli ambientali esterni e le nostre involontarie risposte ghiandolari appare ormai vitale per orientarsi in un'era caratterizzata dalla sovrabbondanza di stimoli. Riconoscere questa dinamica è essenziale per non scambiare un picco di stress indotto artificialmente per una profonda, autentica e razionale convinzione personale. Ed è proprio qui, credo, il centro nevralgico della questione che abbiamo esplorato oggi. E tutto questo lascia aperto un interrogativo che risuona ben oltre le pagine di questo singolo saggio. E un interrogativo per chi ci ascolta. Se le risposte fisiologiche, gli ormoni e i riflessi più intimi che guidano gran parte delle azioni umane sono così facilmente decodificabili e plasmabili dall'esterno, dove si traccia esattamente il confine? È una bella domanda. Dove finisce l'hardware biologico, prevedibile e programmabile come una macchina, e dove inizia l'autentico libero arbitrio dell'individuo? E soprattutto, se le tecniche di persuasione attuali già attingono a queste profonde conoscenze psicofisiologiche, cosa accadrà quando gli algoritmi predittivi e le intelligenze artificiali di prossima generazione arriveranno a mappare e conoscere gli specifici inneschi biochimici personali di ciascuno di noi? Campanelli su misura, insomma. Esattamente, campanelli disegnati su misura che ci conosceranno ancora meglio di quanto noi stessi non sappiamo fare. La prossima volta che si nota un'ombra con la coda dell'occhio in una strada buia e si fa un balzo all'indietro con il cuore a mille, in quel momento di pura reazione fisica incontrollabile, è bene ricordare una cosa. A volte a decidere di muovere quell'ombra per spaventare chi guarda è semplicemente qualcuno che, un attimo dopo, vuole venderci la torcia per illuminarla. Potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Scuolaformazionecinofila.it.